andiamo a ricollegarci con la piazza, ormai con il presidio finito per un'ulteriore valutazione, visto che la comunicazione si era interrotta. Ari, eccoci. Ciao, i telefoni, ciao, diciamo, allora, non sono... Sì. Scusate per la comunicazione che si è interrotta. Evidentemente, insomma, il Gianicolo non è il posto migliore come campo di ricezione, almeno con alcuni apparecchi telefonici. Comunque, ritornando a noi, il presidio, come tu dicevi, insomma, si è sciolto. È stato un presidio sicuramente intenso, perché insomma la volontà di mostrare la solidarietà e la vicinanza a chi è stato arrestato sabato era davvero davvero molto forte. Si è provato insomma a far arrivare questo messaggio di solidarietà con forza attraverso la musica, attraverso il mixer e una cassa che i compagni e le compagne hanno portato appunto al Gianicolo, attraverso la lettura di una serie di comunicati, anche attraverso parole in libertà e slogan. Chiaramente, come quasi sempre, anzi come succede sempre in occasione dei presidi di fronte al carcere, in questo caso sopra il carcere, la risposta dei detenuti non si è fatta attendere, con grida, urla, ma insomma la possiamo condensare con i gridi libertà, libertà, che provenivano appunto da dietro le sbarre. Come sapete, insomma, oggi è stata una giornata itinerante di presidi davanti ai carceri romani, perché questo pomeriggio alle 15 c'è stato un altro momento di lotta davanti al carcere di Re Bibbia, anche lì insomma con una buona risposta. È chiaro insomma che si attendono anche le conclusioni insomma di questa vicenda giudiziaria. Come tutti sapete, insomma, a Re Bibbia sono ancora detenute due persone, due ragazze, mentre a Regina Coeli le persone che ancora si trovano in stato di arresto sono sette, dopo lo stralcio della posizione di uno degli arrestati e la richiesta di domiciliari per altre due. Chiaramente si attendono invece i responsi relativi all'interrogatorio al ragazzo fermato, arrestato invece martedì, cioè l'ultimo, quello su cui più di tutti in questi giorni insomma si sono accanite le cronache giornalistiche. Ricordavamo prima il fatto che comunque la partecipazione è stata buona, possiamo dire discreta. È chiaro insomma che se dovesse allungarsi il periodo di detenzione di queste persone, va allargata questa partecipazione, va ingrossata, proprio perché, no, si tratterebbe a quel punto di dare una risposta non solo al modo in cui tutta la vicenda è stata raccontata, con un'operazione di demonizzazione da parte degli organi di stampa e delle televisioni, anche una risposta al pacchetto di leggi liberticide, un po' dal mai del sindaco e gli altri politici che vorrebbero dare insomma un esempio, no? Un giudizio sommario ed esemplare nei confronti delle persone arrestate per i fatti di sabato. Ecco, questo, cioè, questo presidio di oggi e magari altri momenti di lotta che si organizzeranno in futuro devono essere assunti da tutti e da tutte, da tutti e tutti gli spezzoni di movimento, affinché costituiscano insomma una risposta valida a questo pressione. Sappiamo tra l'altro che il comune si è dichiarato parte civile, sarà parte civile insomma in questi processi, e quindi da parte nostra non un passo indietro da questo punto di vista. Sì, nel corso della giornata abbiamo ascoltato anche l'avvocato del ragazzo rumeno, insomma, su queste dichiarazioni del ministro Maroni, di decreti di espulsioni e via dicendo. Sicuramente insomma la vicenda la continueremo a seguire, visto che non è sicuramente finita qua, soprattutto per quanto riguarda le persone che purtroppo sono ancora dentro, tra Re Bibbia e Regina Coeli. Noi Perfetto. Ti salutiamo e ci sentiamo insomma nei prossimi giorni. D'accordo, ciao a presto. Tutti, grazie per lo spazio, ciao.